Oggi è mercoledì. Quindi tu saresti l'orchestra. Non lo so, con sì. Quella roba lì. Dai. Orchestrina. Ma non ho capito, oggi è mercoledì e ieri non abbiamo capito, festeggiato, non è difficile, il ieri era martedì. Mardi Gras, ma sì, allora ma basta. Perché... No, per carità. Oggi è mercoledì, no, non mi piace più, non mi basta. Adesso il mio obiettivo, con una B, non con due, sì, obiettivo. È il mio scopo, diciamo, è trovare un modo per celebrare il mercoledì. Ma dai, abbiamo già detto, sì, ma l'abbiamo già detto mille volte, non c'è modo di festeggiare il mercoledì, perché non esistono proprio ragioni, cioè non esiste una tradizione legata al mercoledì. Il nome mercoledì richiama Mercurio, messaggero degli dèi. Per il resto cosa si può dire? Wikipedia cosa ti dice? No, non lo so, in tedesco si dice Mittwoch, che vuol dire mezza settimana. Non Mittwoch, sì, vabbè, Mittwoch. Quindi niente di più anonimo. L'accento è all'inizio, Mittwoch. Metà settimana, Ho capito, anonimo. In portoghese si dice quarta feira. Pensa a te, quindi siamo proprio dei Partiamo dei... però da feira. Che significa Babele, confusione. Cosa c'entra la feira? Tito sta bravo. Allora, feira, se cerchi sul dizionario portoghese italiano, significa confusione, confusione, va bene. Vuol dire, sì. Invece feira, seconda feira, terza feira, eccetera, sono lunedì, martedì fino a venerdì. Quindi cosa vuol dire? E che ne so, Raga, cosa vuol dire? Vuol dire che partendo dalla confusione del sabato si contano i giorni che ci separano dal sabato precedente. No, non si capisce niente. Tito, seduto! Ma quindi la feira è il sabato, cioè si dice feira sabato? No, si dice sabato. E allora? Non lo so. Ma scusa, ma i misteri della filologia romanza, quindi. Ma no, ma non è un romanzo, sono cose vere, Drago. Tito, mordilo. Aia! Ma no, a me, a lui! Guarda che debesti, prende questo di Coca-Cola, dai, porti su di magazzino, dai. Buongiorno. Buongiorno, amico, ciao bello. Buongiorno, senta, ho visto che c'è la settimana della trippa egiziana, volevo un cartoccio di trippa, se me lo fa un po' in fretta, per favore, che sono uscito dall'asilo un po' di nascosto, devo rientrare subito. Un cartoccio, va bene, un cartoccio di trippa, regular. Di pizza, un cartoccio con di trippa oggi, no? Offerta, oggi ho offerto pizza con un cartoccio. È la settimana della trippa, volevo solo il cartoccio di trippa, magari con una fettina di pane per fare. Sì, noi trippa facciamo molto. Tanto lavorato il mio paese, no? Da città, noi facciamo pieno di trippa è la trippa, no? Sì, pieno di erbe, buttiamo dentro nel sugo, sta ora, sta lì sul sugo, perché sennò non prende e rimane. Se mi viene l'acqua in bocca. Però noi non mangiamo, amico. Non mangiamo perché non piace. Però non piace. No, a me piace. Non piace. Ma finito, amico. È ramanzato pizza di cartoccio. Però un po' di trippa possiamo prenderla. È finita. A me basta anche un pochino per assaggiarla. No? Con piccante o senza? No, piccante, se c'è piccante. Prendi un poco di piccante, dai. Amico. Prendi di cucina. È un po' di fretta, gli puoi dire che fare. Finito? Prendi di magazzino, vedi di magazzino che c'è piccante. Guarda, piccante, bello forte, amico. Perché ti piace bello piccante, no? Mi piace bello piccante, sì, ti piace. Ha finito? Come ho finito? Ha finito piccante, però non. Vabbè, fa niente, allora me la faccia regular. No, ma non c'è problema. Di 5 minuti prendiamo macchina. No, ma no, come la macchina? Non c'è tempo, devo rientrare all'asilo. Io prendo macchina io qua dietro, amico mio, prendo 5 minuti. No, ma fa niente, affitto, guardi, non mi dispiace che mi va prendo bene. Di affitto macchina, prendiamo e diamo un attimo di mio fratello Mimmo. No, mi sembra di fare. No, guardi, la prendo liscia, cioè liscia normale, trippa non piccante, va bene. No, tu vieni con me, ti faccio guidare macchina, porto con me nella strada grossa che è in tangenziale. Porto a prendere. Posso andare con gli sconosciuti in macchina io? Peperoncino, prendiamo peperoncino da Mimmo. No, ma buono. Va bene, il peperoncino. Partiamo, sta di 40 km da qui, di un secondo torniamo. Come due secondi? Sono 40 km. 40 cioè... km, al tempo che prendo pizza, il peperoncino va trippa. Ma fa niente, allora vengo settimana prossima. No, tu vieni con me di fianco o dopo ti metti guidi come ti faccio di mio figlio. Facciamo così, io vado, torno all'asilo, poi passo a ritirare, no? Pago anche in anticipo e passo a ritirare. dopo, no? No, devi prendere bigante. Bigante 40 minuti qua, 40 km. No, vado, capito, che ma torno. Io non posso, non c'ho 40 minuti, io devo rientrare, fa 5 minuti, se no mi segnalano a stordo d'ora. Io devo rientrare. Mi faccia questa trippa non piccante, normale. Ma io sono contento, ho quei soldi, quant'è? Mi fa lo scontrino, per favore. Andiamo da Mimo, prendiamo. Addirittura mangiamo già subito pizza. Ma chi? Ma mi ha assoluto qua, andiamo, io non posso mica. Andiamo di Mimo, ti faccio assaggiare pizza buona. Pizza buona, no trippa, trippa non piace. Non ma piace via trippa. Ma a me piace trippa. Pizza o trippa manca piccante, amico. E manca piccante, la mangio normale. Siamo d'accordo così? Allora mi fa lo scontrino, la ritiro, me la dà pure così. Me la avvolge in un cartoccio che... Ma... Mi dà un sacchettino che volo. Io vado. Sì, buono, buono trippo, perché voi piace, ma noi... Finita, manca trippa. Ma manca trippa. A parte che, allora se me lo diceva 10 minuti fa, magari io ordinavo qualcos'altro. No, io poi sono venuto qua per la trippa. Allora io... Prendiamo macchina un secondo, andiamo di Mimmo, prendiamo pizza, paparoni, belli tranquilli, con tovaglia per terra. Ma no, come per terra? No, come al solito. Perché? Cos'è sta roba? Perché? No, pizza, peperoni, io sono qua per la trippa. Trippa piccante. Prendiamo di Mimmo, andiamo con macchina. Non c'è la trippa piccante, prendo la trippa normale. Finita. Perché dopo 10 minuti non c'è più la trippa. Allora... Ma basta allora si toglie fuori il cartello, perché se io volessi chiamare la polizia municipale. Prendiamo la moto, io metto casco, tu noto, vieni con me da Mimmo. Cinque minuti siamo arrivati da ma Mimmo. No, io non mangiamo vedere... pizza buona con babaroni bene cotta, bella. Ma buona. No, a me non piacciono i peperoni, mi sono indigesti. Io poi adesso devo andare. Capito? E poi vi consiglio anche, perché sennò poi ci sono anche le telefonate anonime, che uno chiama la polizia municipale, vieni pronto? Qui c'è qualcuno che mette un cartello che promette una cosa e poi non si fa. Non urli, ehi amico, bassi voce, non urli, ehi, dove sei? Non urli. E questo è mio. Ma casino, fa casino dal negozio mio, oh. Non io urli. Non faccio casino, qui c'è scritto gente, che c'è la... Gente lamenta, viene carabiniera. Gente lamenta, no, carabinieri, cosa c'è? Viene la carabiniera, ecco, quindi non urli. La carabinieri, qui. Porta pizza con babaroni per amico, no, dai. No, che pizza, però, allora ce l'avete, io, il Mimmo, cioè cosa c'entra? Io qua c'è il cartello trippa, cioè avete già finita. E non ho capito come funziona, capito? Io adesso dovrei andare, andrei, no? No, dove vai, amico? Prendi qualcosa. Asilo, no, devo andare. Prendi qualcosa, scusa, ma perché fai questo tu? Faccio ogni volta vieni e non prendi niente. E c'è il cartello. Guarda qua, c'è con le cartelle. Non paghi, c'è il cartello. Settimana della trippa. La trippa egiziana, ho capito come fate. Ma perché trippa allora, era settimana scorsa, no, finita. Io, finita. È finita trippa. Poi tu pizza con piccante, Mimmo, andiamo a prendere pizza. No, che tu mi parli e dopo mi scappi perché fa come mio figlio. Ah, tu mi fa come mio figlio che viene. Mi chiede le cose e non paga, le butta in terra e poi mi porta in giro, mi prende il negozio, butti i chiavi. Ciao, prendi, andiamo di zio Mimmo. Arrivo. I di trippa che non piace, maiale non piace, e butti in terra, io stufo, amico. E butti la... e non paga sempre non paga. E piccante. Fate il lavoro giusto! E piccante non trovi. E perché non trovi piccante? Piccante non c'è. Piccante non c'è. No, se non c'è piccante, non c'è trippa, non c'è pizza. Quindi i cartelli fuori non lo mettete, mettete fuori un cartello. Qui è una casa privata questa qua praticamente, no? E piccante allora... fa anche male perché bruci dietro, amico. Oh, tu sai, amico, che bruci. Bruci piccante. Perché io lo mangio, cosa lo mangio a fare? Perché c'è il bruciore, per vado a vedere un film dell'orrore voglio farmela addosso, no? Allora io voglio, avete il peperoncino, una sfida. Qui cosa c'entra adesso? Vuoi fare una sfida al piccante? Prendo beberone piccante, ti spiace? Pizza con babarone piccante. Mi spiace, è mezz'ora che... No, pizza no, mi dia solo il peperone piccante. Mi dia il peperoncino che me lo metto io solo. C'ho qua, c'ho panino. E ti regalo pizza, dai, regalo pizza, dai. Amico, dai, ti regalo pizza e porti via, dai. E non urli però, eh. Io non ho urlato, allora mi dia sta pizza, io la pago perché voglio pagare quella che prendo. Va bene, vieni, sta pizza, che pizza è poi, giusto per sapere? Margherita, va bene. Pizza con babarone piccante. Ma come peperone? No, avete le sole piccanti e poi era per la trippa. Adesso quindi non ci siamo. Io loro mi ha fatto rientrare perché mi ha illuso. Perché voi siete così? Bla bla bla bla, per attirare. No, trippa finita. Amico, niente. Se tu e trippa vieni con me da zio Mimmo. Prendiamo macchina, andiamo da Mimmo. Prendiamo pizza. Sì, adesso comincia la cantilena. Ora poi lo dico. Poi se magari arriva un controllino. Oi amico, non urli, vieni qui, ti scappi, dove scappi? Uguale di mio figlio, quando succede a casino poi scappa, amico. Urla casino di Madonna, carabiniera, che gente che guardi, il negozio qua chiude, magazzino finito. No, tutto. Finito tutto di magazzino. Che arriva l'ufficio di igiene, non qua i carabinieri. Qua finito tutto, il bagno, dentro nel bagno, finito, magazzino, in camera, magazzino. E mio figlio prende il giocattolo, mette in magazzino, prende i cosi, mette in magazzino, babarone magazzino, pomodoro magazzino. E facciamo casino di Madonna, non giusto questo, amico, tu scappa sempre, uguale di mio figlio. Avanzato, amico, un poco di trippa piccante? Metti in un piatto che mangio io, dai. Mancano 37 giorni alla fine del mondo.